Benvenuti. Allora, oggi ci immergiamo in un tema affascinante, il data work. Parliamo di quei microlavori online, spesso invisibili, che però sono fondamentali per l'intelligenza artificiale. Esatto. E ci concentriamo su una storia molto particolare, quella dei lavoratori venezuelani. Sì, basandoci su uno studio recente che li chiama, mi pare, protagonisti inattesi. Proprio così. E la domanda sorge spontanea. Perché proprio il Venezuela? Beh, la crisi economica gravissima spinge tantissime persone a cercare guadagni in dollari. E le piattaforme digitali tipo Microworkers o Clickworkers sembrano offrire questa possibilità. Sembrano, appunto, perché poi ci sono le difficoltà, paghe bassissime, problemi di connessione internet, insomma non è facile. Per niente. Quindi la nostra esplorazione oggi è come fanno, come navigano questa complessità. Che strategie usano? Guarda, la cosa forse più interessante che emerge è proprio come riescono a farcela. Cioè? Mettendo in piedi una vera e propria rete sociale, un'infrastruttura fatta di persone, sia online che offline. È questo che permette loro di, diciamo, gestire un sistema che altrimenti sarebbe ingestibile. Affascinante. Lo studio parla di tre concetti chiave, mi sembra. Resilienza, reworking, che potremmo tradurre come riadattamento attivo, e resistenza. Partiamo dalla resilienza. Che significa qui, nel concreto? Beh, la resilienza è la base di tutto. È la capacità di resistere, di andare avanti giorno dopo giorno. Qui significa prima di tutto trovare questo lavoro e poi, riuscire a farlo. E come lo trovano? Ecco, questo è un dato molto interessante dello studio. A differenza di altri paesi, in Venezuela si scoprono queste piattaforme soprattutto grazie ai legami forti. Amici stretti, famiglia. Ah, davvero? Non tramite ricerche online generiche? Molto meno. Diventa quasi un'attività, diciamo, comunitaria. Spesso si lavora insieme in famiglia, ci si dà una mano. E capisci, con la crisi che c'è, non è un lavoretto extra. No, certo. È spesso l'entrata principale per la famiglia. Quindi è un accesso al lavoro molto, molto radicato nelle relazioni personali. È un bel contrasto con l'immagine classica del lavoratore digitale solo davanti allo schermo, vero? Assolutamente. Però una volta che sei dentro, iniziano altri problemi pratici. Tipo? I pagamenti. Giusto, i pagamenti in dollari. E come li gestiscono localmente? Con l'iperinflazione e tutto il resto. Qui entra in gioco il reworking. Esattamente. Il reworking è proprio questo. Non subire passivamente, ma modificare attivamente le proprie circostanze. Convertire i dollari guadagnati online in bolivares è un casino, diciamocelo. Immagino. Le restrizioni sono tante, l'inflazione galoppa. E allora si affidano di nuovo alle reti sociali. Ancora le reti sociali? Sì, ma di tipo diverso. Magari i parenti che sono emigrati, legami forti ma a distanza, potremmo dire, misti. Oppure intermediari locali, gente trovata col passaparola. Quindi legami deboli all'inizio? Esatto, legami deboli che poi magari diventano di fiducia col tempo e così creano dei sistemi di cambio paralleli, informali. Spesso sono anche più convenienti di quelli ufficiali. Incredibile. È un adattamento ingegnoso per superare gli ostacoli del sistema, eh? Proprio così. È un modo per aggirare le barriere. Sembra quasi un'economia informale che si costruisce sopra quella digitale. E per gestire il lavoro vero e proprio, giorno per giorno. Le piattaforme sono note per isolare i lavoratori, no? Vero. E qui intervengono altri tipi di legami ancora. Quelli deboli, sì, ma online. Cioè i gruppi sui social. Esattamente. Lo studio sottolinea l'importanza enorme dei gruppi su Facebook, WhatsApp, Telegram. Sono fondamentali. E cosa succede lì dentro? Ci si scambia di tutto. Informazioni vitali. Quali compiti è meglio evitare? Come si superano certi test d'ingresso delle piattaforme? Trucchi per fare il lavoro meglio o più in fretta? Praticamente si formano a vicenda. Sì, si crea una specie di formazione tra pari che compensa quello che le piattaforme non offrono. Si aiutano a vicenda, combattono l'isolamento. Questo è un chiarissimo esempio di reworking delle condizioni di lavoro imposte. Notevole questa capacità di auto-organizzarsi dal basso. Ma c'è anche una forma di resistenza più, diciamo, diretta contro le regole o le condizioni che magari ritengono ingiuste. La resistenza c'è, ma è più, come dire, sottile, meno organizzata rispetto ad altre forme di lotta sindacale, per capirci. Ok, in che senso? Sempre in questi gruppi online a volte si condividono strategie per aggirare certe regole, magari limiti sul numero massimo di task che un venezuelano può fare, se ci sono. Capisco. o modi per finire i compiti più velocemente, magari, come ammette qualcuno, forzando un po' le regole, quasi barando. Immagino ci sia un rischio, però. Certo, c'è il rischio per la reputazione, non solo individuale, ma collettiva dei lavoratori venezuelani sulla piattaforma, però segnala una volontà di reagire a quelle che sentono come ingiustizie. Però non è una lotta aperta. No, l'impressione generale, che dallo studio, è che la priorità assoluta resti comunque la sopravvivenza economica. Quindi la resilienza e il reworking vengono prima della resistenza aperta. Ok, il quadro generale mi sembra chiaro. Questi lavoratori, che spesso sono invisibili nell'economia digitale globale, dimostrano un'intraprendenza incredibile. Assolutamente. Usano le loro reti sociali locali, a distanza, online, forti, deboli, come una vera infrastruttura per sopravvivere, per adattarsi a un sistema oggettivamente difficile. Non sono semplicemente vittime passive. No, affatto. Per questo, protagonisti inattesi mi sembra una definizione molto azzeccata. Le loro azioni, le loro strategie sono plasmate da quel contesto locale estremo, certo, ma ci dicono tanto sulla complessità dell'agire dell'agency nel lavoro digitale precario. E mostrano come questa agency sia profondamente radicata nelle relazioni sociali. Proprio così. Sia quelle tradizionali, faccia a faccia, sia quelle nuove, mediate dalla tecnologia. C'è un intreccio continuo. E allora, per chiudere, lasciamo magari uno spunto di riflessione. Vedere come queste reti informali, nate dal basso, finiscano per compensare le mancanze sia delle piattaforme globali, sia delle istituzioni locali. Sì. Beh, questo che tipo di domande etiche ci pone? Penso alla responsabilità delle grandi aziende tech, che alla fine traggono profitto da tutto questo lavoro, spesso nascosto e molto precario. È una domanda fondamentale, direi, su cui riflettere.